24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Sapete quanti italiani hanno misure restrittive della libertà sul fisco? Qualche decina. 99. Sì. Diciamo che siamo un paese di evasori. Sì. Cioè, il sistema non funziona. In Francia fanno la stessa cosa con il 10%, non con il 3%. Ecco, proviamo a vedere se questa affermazione del premier Matteo Renzi corrisponde alla verità o no. E Matteo Renzi, lo ricordo, si riferisce all'articolo 19 del decreto attuativo della delega fiscale. Questa norma, quella comunemente ribattezzata Salva Berlusconi, la norma che è stata ritirata e rinviata. Risentiamo le parole di Renzi. Sapete quanti italiani hanno misure restrittive della libertà sul fisco? Qualche decina. 99. Sì. Diciamo che siamo un paese di evasori. Cioè, il sistema non funziona. In Francia fanno la stessa cosa con il 10%, non con il 3%. Ecco, è vero che in Francia applicano il 10% e non il 3%. Dunque, è vero in parte, però il sistema fiscale francese prevede una doppia soglia che lo rende molto più severo del sistema fiscale italiano. Queste disposizioni non sono applicabili in caso di frode se non eccedono un decimo della soglia imponibile o, e questo è il punto che fa la Francia diversa, un ammontare di 153 euro. Queste quattro parole cambiano completamente il senso di quello che capita in Francia, cioè in caso di evasione volontaria e fraudolenta uno sforamento di 153 euro farà scattare in ogni caso la punibilità, conducendo l'evasore alla possibile incarcerazione. Insomma, l'esistenza della doppia soglia, quella francese, rende il caso francese ben differente dal nostro e particolarmente più severo. E quindi l'esempio naturalmente non corrisponde alla verità. 800 24 0024 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Le aziende italiane sono strette tra la crisi e la necessità di investire in innovazione per competere sui mercati stranieri. Ecco, il governo sta puntando sulle start-up, cioè su società ad alta concentrazione tecnologica che investono almeno il 15% in ricerca e innovazione. A noi piace l'idea di fare dell'Italia la più bella start-up del mondo. Questa non è soltanto la moda del momento, potrebbe essere un cambiamento, forse definitivo, del mondo del lavoro. Una startup, per quanto mi riguarda, è un'idea che si trasforma in qualcosa di cui poter vivere. Sono riuscito a fare un primo round di finanziamento. Per questo round qui $500,000. Apple Store di tutto il mondo dall'anno scorso e siamo presenti in 51 paesi. Eravamo circa 12 persone lo scorso autunno, ora siamo quasi un centinaio. Avevamo posto un obiettivo di $50,000, ce ne sono arrivati 586. Siamo aumentati di 10 volte in un anno. Fatturato di un anno? Intorno a 1,5 milioni. Per il 2015 speriamo di moltiplicarci per due, quindi passare direttamente sui 3 milioni di euro. San Francisco è per molti di voi, ma anche, lasciatemelo dire, per molti di noi, una capitale del futuro. Il rischio del nostro paese è di essere pieno di città straordinariamente belle, ma che sono capitali del passato. Lamentarsi non serve a nulla. In Italia è vero, lo Stato, le regole sono un po' indietro, ma c'è moltissimo capitale umano. Gli ingegneri in Italia non sono inferiori rispetto a nessun ingegnere della Silicon Valley. Ecco, le società ad alto valore innovativo come quelle che abbiamo sentito raccontare sono 3.251. Stefano Firpo, capo della segreteria tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico. Si sta lavorando per creare un Made in Italy del software. Buongiorno. Sì, buongiorno. Si sta lavorando per fare dell'imprenditore italiano innovativo un grande motore di crescita, di innovazione e di creazione di lavoro. Ecco, ma quando un'impresa rientra nella categoria della startup, dottor Firpo? Un'impresa deve semplicemente dimostrare di puntare sull'innovazione e per farlo deve dimostrare, ad esempio, di avere o un po' di spesa in ricerca di sviluppo o del personale qualificato, oppure un'attività brevettuale o un software registrato alla SIAE. Ecco, ma quali sono le misure di vantaggio più importanti? Beh, quelle più importanti sono certamente gli incentivi fiscali a chi investe nel capitale di queste start-up, gli incentivi molto importanti di accesso alla garanzia pubblica sui finanziamenti creditizi a queste start-up e tutta una serie di misure che aiutano diciamo, l'ecosistema che sta intorno alle start-up a essere più amichevole nei suoi confronti. Ecco, ma dottor Firpo, quanti fondi mettete a disposizione di questo tipo di imprese? Ma oggi tra le misure di agevolazione fiscale e le misure di agevolazione, diciamo, all'accesso al credito, lo Stato su questo mondo ha messo più di 300 milioni di euro. Ecco, ma i due terzi delle start-up sono concentrate nel nord Italia. Perché il Sud fatica, nonostante abbia a disposizione finanziamenti anche a fondo perduto, a differenza delle altre regioni? Ma il Sud, non ce lo dobbiamo nascondere, certo, è più indietro rispetto al nord. Tuttavia anche al Sud noi registriamo delle realtà molto significative e molto importanti. Penso a Napoli, penso a Bari, penso alla Sardegna, penso ad alcune realtà in Sicilia. Quindi non è vero che il Sud non esiste. Il Sud c'è, è un pochino più indietro. Diciamo, i fenomeni di addensamento di queste realtà sono meno evidenti al Sud, ma per questo non vuol dire che non ci siano. Senta, dottor Firpo, le start-up hanno un alto tasso di mortalità entro i primi 3 anni dalla nascita. Come fate a selezionare quelle con l'aspettativa di vita più lunghe per aiutarle? No, noi non le selezioniamo, è il mercato che le seleziona. Noi le aiutiamo a nascere e a crescere. Poi se falliscono, diciamo, sta nella naturale evoluzione di un'impresa altamente innovativa e altamente rischiosa anche di fallire. Ecco, ma quanti anni, secondo le vostre previsioni, serviranno perché le start-up innovative possano colmare il vuoto lasciato dalle circa 120.000 industrie che hanno chiuso i battenti negli ultimi 10 anni? Ma se noi pensiamo a paesi che sono un po' più avanti di noi, ma non molto diversi da noi, vediamo che il ruolo delle nuove imprese ad alto contenuto tecnologico è un ruolo fondamentale nella creazione di nuova occupazione. Circa la metà dei nuovi posti di lavoro sono stati creati da queste imprese, ecco, penso ad esempio negli Stati Uniti, e quindi c'è un grandissimo valore. Bisogna però far lavorare di più insieme start-up e mondo dell'impresa tradizionale. Ecco, ma ci sono settori dell'economia del nostro paese che sono più adatti al capitale innovativo delle start-up? Beh, noi abbiamo le 3.250 start-up che lei citava prima, sì, sono attive in tantissimi settori, dal clean tech alla manifattura, al biotech. Noi abbiamo delle realtà pazzesche nel biotech, nel medtech. Quindi in realtà la presenza è un po' ovunque. Noi abbiamo un vantaggio, noi abbiamo l'industria e quindi dobbiamo far lavorare di più queste piccole realtà ad alto contenuto innovativo con l'industria, perché grazie all'industria queste realtà possono più rapidamente arrivare a industrializzare i loro prodotti. Ecco, dottor Fio, però senta che cosa ci ha detto in concreto Gianluca Granero e Marco Trombetti, che a Roma hanno creato un polo innovativo di start-up e che riscontro hanno nel rapporto con lo Stato. L'Agenzia di Entrate non capisce minimamente cosa stiamo facendo e si permette di tenersi una pratica di rimborso IVA congelata per 18 mesi. Non capiscono che vuol dire dare un servizio a un cliente che può essere sparso in qualunque parte del mondo. Loro pensano: fai la fattura, vendi la merce, fai la bolla di accompagno che adesso si chiama DDT, e non si spostano da questo schema. Secondo me quello che manca è la voglia di combattere la burocrazia. L'Agenzia delle Entrate, lo Stato, una volta ci ha trattenuto qualcosa come 150.000 euro, avevamo crediti verso lo Stato per 150.000 euro di imposte, e siccome però il modello del venture capital, cioè dell'investimento di rischio, prevede investimenti grandi iniziali e zero ricavi per un po', quindi è normale che qualsiasi startup innovativa di tecnologia abbia un credito di imposta verso lo Stato, perché pagherà IVA che non gli viene rimborsata. Ora, questo che è scontato, e per chiunque capisca come funziona il venture capital dovrebbe essere evidente, e invece ovviamente non rientra nei parametri della normalità delle aziende italiane, e quindi per convincere le agenzie di entrate a ridarci i soldi che erano nostri abbiamo impiegato quasi 18 mesi. Ecco, dottor Firpo, è d'accordo con questi giovani imprenditori? Con questo tipo di pastoie diventa complicato però. Beh, il problema dei rimborsi IVA è un problema che hanno le start-up, che hanno anche le imprese, diciamo, tradizionali. Su questo stiamo provando a intervenire semplificando alcune cose. Ma come? Semplificando cosa vuol dire? Cioè il governo cosa vuole semplificare in questo senso? Diciamo rendendo un pochino più agevole la possibilità di ottenere i rimborsi di IVA, riducendo un po' quello che loro chiamano la burocrazia su questo punto e quindi velocizzando il processo. Sì, ma sono anche regole europee che vanno rispettate e quindi abbiamo un po' dei vincoli, però non ce lo dobbiamo nascondere, quello dei rimborsi IVA è certamente è un problema molto, molto importante. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, i grandi investitori italiani, dottor Firpo, stentano però a credere e mettere soldi nelle start-up. È questo lo scopo di Italia Startup Visa? La Startup Visa è un modo per, diciamo, uscire un po' dal nostro, chiamiamolo, tafazzismo e provare a considerarci attrattivi. L'Italia ci spiega come funziona? Funziona che un cittadino extra UE o anche uno studente extra UE che già studia in Italia, che ha un permesso di soggiorno per studio in Italia, possono, con una procedura telematica, andando sul sito Italia Startup Visa .mise.gov.it, diciamo, avere accesso a una procedura estremamente semplificata. Noi in 30 giorni diamo il nulla osta, curiamo noi tutte le pratiche burocratiche nei confronti, ad esempio, con le questure, per avere il nulla osta da parte della questura. Sì. Diamo in 30 giorni il nulla osta, il cittadino estraneo va all'ambasciata e ottiene il visto. Ecco, un'ultima cosa, dottor Fir, per le start-up possono assorbire una quota del tasso di disoccupazione giovanile? Avete fatto dei conti? Avete un'idea di cifre? Sì, a oggi le 3.250 startup innovative nate negli ultimi due anni e mezzo, creano un'occupazione tra dipendenti, diciamo, e soci lavoratori che è intorno vicino alle 14.000 persone. Grazie, dottor Firpo. 800 24 00 24 349 238 6666 l'SMS. Ecco, anche i privati cercano di sostenere le idee migliori con borse di studio e formazione. Per esempio Enel, che sostiene BEST, un progetto che assegna borse di studio a talenti italiani under 35 concentrati su innovazione nel mercato e nella ricerca. Con BEST i vincitori hanno l'opportunità di lavorare per un semestre in un'azienda della Silicon Valley e sviluppare la propria start-up. Cosimo Palmisano, tarantino, 38 anni, nel 2009 è stato uno dei vincitori di BEST. Poi cosa succede? Poi sono andato in California, ho lasciato il mio lavoro in Italia, sono andato in California, a Silicon Valley, a studiare imprenditoria in America e a lavorare. E dove ha lavorato nella Silicon Valley? Ho lavorato presso un'azienda italiana chiamata Decision, con la quale ho cominciato a muovere i primi passi in Silicon Valley. Ma lei che idea aveva? Io avevo un'idea legata al mondo dei social network, quindi la possibilità di dare alle aziende il dato social per prendere decisioni in maniera più intelligente. Sì. Poi, un colpo del destino, incontra Franco Petrucci. Che cosa è capitato? È capitata la cosa solita, si va all'estero per incontrare un altro italiano, ho incontrato questo imprenditore che ha creduto nella mia idea, ha investito per portare avanti le mie idee e qui ci siamo uniti insieme per creare un'idea unica di business. Ecco, ma voi che esattamente, ingegner Palmisano, che è fondatore di Decision, che cosa fate di preciso? Sì, sono uno dei fondatori di Decision. Con Decision quello che facciamo è agganciare tutte le informazioni provenienti da processi aziendali, dati e clienti al fine di permettere alle aziende di prendere decisioni in maniera collaborativa. Creiamo dei social network aziendali basati sul dato. Ma in concreto il progetto BEST, che è quindi la borsa di studio, che opportunità le ha dato, a parte incontrare Petrucci? Ne ha dato assolutamente la possibilità di vedere come è fatto il mercato americano, soprattutto in questo contesto, che è un contesto molto complesso dove tutto nasce, e nasce tutto LinkedIn Silicon Valley. Quindi ho capito come erano fatti i competitor, come era fatto il mercato e qual era il giusto approccio al mondo anche degli investitori. Quante persone lavorano nella sua società? Adesso in Decision ci sono all'incirca 100 persone distribuite fra sviluppo, parte commerciale e parte amministrativa, all'incirca 80 in Italia e 20 negli Stati Uniti. Ma la sede rimane sempre a Latina, dov'è? La sede di sviluppo, sì, abbiamo tutta la parte di sviluppo software, è tutta basata a Latina, abbiamo sia ingegneri che programmatori di ottimo livello. È vero che voi siete la società italiana che ha chiuso il round investimenti più alto con un fondo americano? Corretto, abbiamo chiuso due round di investimento a circa 40 milioni di dollari, è stato il più alto round di investimento fatto da un'azienda di software italiana da un fondo americano. Sì. Ecco, ma in Italia, ingegnere, c'è interesse da parte dei grandi investitori a puntare, cioè mettere soldi in startup tecnologiche come la sua? Ci sono investitori italiani che investono non certo queste cifre, 40 milioni di dollari come è successo a noi, mancano probabilmente gli investitori stranieri che fanno investimenti su società italiane, quindi non si alza l'asticella degli investimenti. Ecco, ma voi avete sede a Latina, state puntando sul mercato americano, che cosa chiedono gli americani di diverso da quello che chiede il mercato italiano, ingegnere Parmigiano? Il mercato, non credo ci siano grosse differenze, cambia molto il contesto competitivo, per cui per rompere le barriere della competizione il mercato americano richiede tantissimo la capacità di misurare esattamente quali sono i vantaggi economici di un investimento in un software come il nostro. Quando il presidente Renzi ha visitato la Silicon Valley, ha incontrato un gruppo di start-upper italiani, è stato lei a raccontare al Premier come l'Italia può diventare leader in questo settore? Sì, il mio suggerimento è stato quello di cercare di mettere le condizioni economiche, macroeconomiche in Italia affinché investitori stranieri arrivino ad investire in società italiane. Ecco, ma mettere le condizioni economiche, i macro investimenti, esattamente che vuol dire? Vuol dire che ci sia un meccanismo di tassazione, un meccanismo di deburocratizzazione altissimo affinché possa essere facile per gli investitori stranieri arrivare in Italia a investire e avere la tranquillità di poter vedere crescere i propri investimenti. Ecco, ma che risposta ha avuto da Renzi? Che si sta lavorando in questo senso, quindi per fare in modo che questo accada. Vabbè, niente di preciso, diciamo. Non propriamente. Senta, ingegner Parmigiano, un'ultima cosa. L'elaborazione del software può diventare un made in Italy, un pezzo del made in Italy? Sì, lo crediamo profondamente, anche perché per fare buon software bisogna essere dei buoni architetti, bisogna essere creativi, bisogna essere dei buoni ingegneri e abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare. Cioè ci sarà il made in Italy del software vincente come il made in Italy del fashion? Sì, ci deve essere per forza. 800 24 0024 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS, e cambiamo completamente argomento, andiamo in un carcere, nel carcere Due Palazzi di Padova, dove opera Don Marco Pozza, un prete di 34 anni, l'autore di un libro, L'imbarazzo di Dio. Ecco, imbarazzo e Dio, è un accostamento inconsueto, da dove nasce? Nasce da quel sentimento che a me sorge spontaneo quando leggo una pagina dei Vangeli. Se avessi davanti uno specchio vedrei che sul mio volto c'è il rossore perché qualcosa mi ha sorpreso e quindi mi ha imbarazzato. Ecco, ma se imbarazzo e sorpresa, quanto si imbarazza lei, cappellano di un carcere di massima sicurezza, davanti al mondo carcerario? Ogni mattina l'imbarazzo è il pane quotidiano. Diciamo che mi imbarazzo di più mentre confesso, quando avverto qualche storia difficile e dentro di me dico adesso Dio voglio vedere come fai a toglierti da questo imbarazzo, e se le cavo si sta bene. Sì, è difficile stabilire un rapporto con i detenuti? Ma è difficile stabilirlo nella misura in cui io avessi la curiosità di sapere cosa hanno combinato. A me interessa cercare l'uomo e di conseguenza con la familiarità, anche le difficoltà, a volte riesco a vincerla. Ecco, Don Marco Pozza, è lei a cercarli o aspetta che siano loro a farsi avanti in generale? Diciamo che quando ero ragazzo mi facevo io cercare dalle ragazze, adesso che sono sacerdote preferisco fare il contrario, andare io alla ricerca dell'uomo come ha fatto Dio con me. Senta, l'imbarazzo di Dio è una rilettura meditata e appassionata dei Vangeli. Qual è il segreto per trasmettere la passione che lei ha per i Vangeli all'interno di un carcere di massima sicurezza? Ma penso, signor Giovanni, che sia la stessa che comunicarla alla gente fuori. Un Vangelo riesce ad essere appassionante nella misura in cui la persona che te lo racconta, che te lo testimonia, è appassionata, ovvero sia si lascia abitare dalla bellezza che è nascosta dentro i Vangeli, si lascia sorprendere. Ecco, Don Marco Pozza, lei usa un linguaggio spesso più poetico che narrativo. Non teme di essere troppo difficile? Diciamo che il rischio fa parte della mia missione, altrimenti non avrei accettato di lavorare in carcere. Poi la poesia mi piace perché è quel linguaggio che riesce a parlare agli antenati e anche ai nascituri e di conseguenza mi permette di giocare con le sfumature delle parole e quindi con la sfumatura anche del messaggio di Cristo. Ma che cosa cercano in lei i detenuti? Penso penso che cerchino l'unica cosa che non trovano in tutte le altre figure istituzionali dentro ad un carcere, ovvero sia una persona che in maniera disinteressata e svincolata da qualsiasi logica di detenzione possa aiutare loro a ripercorrere la strada che li ha condotti a firmare un fallimento nella vita, senza giudizio. Ecco, ma per quanti la religione riesce a rappresentare un conforto concreto in quella situazione? Penso per parecchie persone, ma qualora fosse d'aiuto anche solo ad una persona, quella sera me ne torno a casa e dico: è valsa la pena investire del tempo con queste persone. Il suo è un libro che parla anche di sbagli, di sconfitte, di fallimenti. Nel caso dei detenuti, naturalmente, questi sono il punto di partenza. Come si costruisce il recupero? Ma penso che il recupero sia quello che avviene attraverso i percorsi di fede e attraverso l'attività anche lavorativa. Penso che il recupero, il punto iniziale sia sempre quello, ovvero sia creare le circostanze ideali grazie alle quali una persona possa guardarsi come in uno specchio e decidersi se continuare su quella strada o se fare un'inversione a U e cercare di diventare una persona migliore. Ma l'avrebbe mai pensato che sarebbe finito a fare il cappellano nel carcere? Da ragazzo che ha votato la Lega Nord fino a 30 anni era il posto che odiavo. Poi il Signore non è riuscito a fare di me un ragazzo umile, per amore mi ha umiliato e oggi mi ritrovo ad essere felice all'interno di un carcere. Senti, Don Marco Pozzo, un'ultima cosa. È importante, quanto è importante il lavoro come strumento di riabilitazione in un carcere di massima sicurezza come quello di Padova? Penso che il lavoro sia lo strumento principale, perché lavorare non è solo portare a casa un salario, ma lavorare è riacquistare anche la dignità. Poi noi qui nel nostro carcere, con la grande tradizione della pasticceria Giotto, mi accorgo in prima persona che lavorando i dolci questi detenuti hanno la possibilità anche di lavorare se stessi. Costruendo la bontà riescono a costruire dei frammenti di bene anche dentro alle loro vite che sono deragliate. Mix 24. Magari la tua vita adesso è stanca e capisci che ti manca un'ala per alzarti in volo e pensi che così non va più bene, meglio sopportare insieme che far festa tutto solo. Magari qualche acuta nostalgia spiegherà la tua follia, che la pace... Strangelo stare a letto ti rende languido, romantico, più del solito. Sì, perché davanti al cielo che non promette nulla di buono, davanti a una finestra, in ogni goccia si può raccogliere l'immensità del disegno e quindi si è costretti a far festa da soli con le più acute nostalgie. È un duetto straordinario questo che ascoltiamo, di Sergio Bardotti con Ornella Vanoni, dove viene raccontato ciò che l'amore fa, cioè quello dell'amore che tesse una paziente trama, e perché manca sempre un'ala per alzarsi in volo, e come canta Sergio Bardotti, ogni acuta nostalgia spiega solo la follia del gioco più eccitante che c'è al mondo, ed è goderne ogni secondo e non tornare mai, perché appunto da dietro una finestra si fa festa con le più acute nostalgie. Il brano è Magari, Sergio Bardotti e Ornella Vanoni. Non posso, mi fa ridere, Ornella. Magari la tua vita adesso è stanca e capisci che ti manca un'ala per alzarti. Davvero, Mario, magari. Magari che cosa? Per magari. Noi che abbiamo i piedi nella realtà. Sentiamo. Bolla! Grandi cose oggi. Tamburi di guerra. Tamburi di guerra. Drums, sì, of war. Questi sono degli effetti che si usano al cinema. Beh, insomma, onore a Abdullah di Giordania, Giovanni. Lo segnalo a tutti gli ascoltatori, chi se lo fosse perso, invito a leggere quello che sta succedendo nel mondo medio orientale, perché dopo aver visto il suo pilota arso vivo dai feroci aguzzini di ISIS, Re Abdullah ha interrotto il suo viaggio in America, è tornato in Giordania e si è messo a capo della guerra. Davanti a dei congressmen americani ha citato Clint Eastwood, lo riportava stamattina il Washington Examiner, e secondo i media arabi, su questo non abbiamo conferme, ma insomma non stento a crederlo, diciamo così, parteciperà direttamente ai raid aerei. E, insomma, Duncan Hunter, che è un repubblicano... Come i campioni di una volta, i grandi capi proprio, alla testa dell'esercito. Alla testa dell'esercito. Duncan Hunter, che è un deputato repubblicano, un veterano dei Marines, ha descritto così Abdullah. È furioso e ha detto: abbiamo un solo problema, finire il carburante e i proiettili. Un grande condottiero. Sì, un grande condottiero, bisogna dire la verità. Abbiamo rispolverato un pezzo leggendario, si può dire, Thriller, Michael Jackson, qualcosa di fantastico, perché di Thriller comunque dobbiamo occuparci venendo alla Grecia. E Renzi, tu hai visto, gli ha regalato la cravatta a Tsipras. Gli ha regalato la cravatta. Però si è dimenticato il Premier che Tsipras a noi ci considera dei cravattari, perché gli abbiamo prestato 43 miliardi e pretendiamo anche di riaverli indietro. Ma guarda tu, pensa che tipi. 43 miliardi agli italiani, 1600 euro a famiglia, e lui li rivuole pure indietro. No, non si può fare questa cosa. Insomma, la BCE ha detto no alla Grecia, per fortuna, aggiungo io. Niente più soldi a Atene senza le garanzie di un piano di salvataggio. Quello che è in corso scade a febbraio. I greci rifiutano un altro tipo di salvataggio simile, un bailout, così si chiama tecnicamente, e ne vogliono un altro. Solo che l'altro che propongono, agli occhi di Mario Draghi, non funzionerà. Probabilmente non funziona, anzi non ha funzionato neanche quello della Troica, prendiamoci chiaro, però anche perché non mi sembra che l'economia greca è un disastro totale. La cosa da tenere d'occhio a questo punto è vedere se le banche reggono oppure no. Possono rivolgersi allo sportello d'emergenza della Banca Nazionale Centrale, ma devono offrire delle garanzie. In ogni caso BCE potrebbe bloccare pure quello. Vabbè, insomma, che cosa succederà? Inizia una nuova Europa. Ma secondo me la Grecia è un piede fuori dall'euro, poi bisogna vedere la volontà dell'Europa di tenerla dentro o meno. Bisogna vedere le conseguenze, certo, di tutto il resto. E le conseguenze, non lo so, io sono sempre dell'idea che un grande crack può produrre un grande cambiamento, e in Europa è evidente che del cambiamento c'è bisogno. Che la Grecia faccia crack. È là. Cioè, è lì sull'uno. Cioè, tecnicamente è andata, poi possiamo parlarne. Era già andata un'altra volta. Ma era già andata quando hanno truccato i conti, Giovanni. Parliamoci chiaro, questo è il punto. Salamino! Marabou, perché sei morto? Pane vin non ti mancava. L'insalata era nell'orto e una casa vera. Non è morto, è rotto. Il patto del Nazareno è solo rotto. Matteo Renzi ha preso una decisione unilaterale, e ciò è vero. Ha fatto eleggere Sergio Mattarella al Quirinale per decisione unilaterale, ed è vero, lo ha imposto, e non però per fare una superchieria, ma solo per fare come pare e piace a lui medesimo di persona. Non è vero poi che Silvio Berlusconi ne esca sconfitto, non è vero. Ieri infatti c'è stata la riunione di presidenza. E questa è la canzone che accompagna le riunioni di presidenza di Forza Italia, dove Silvio Berlusconi vi giganteggia più e meglio di Goldrake. Ed è solo per tattica, o forse per strategia, che si è parlato di azzeramento. Dentro Forza Italia, insomma, come tra moschettieri, sono tutti per uno e uno per tutti. Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme. Se un libro li riconoscete tra i versi del quartetto Cetra, giusto? Sono Renato Brunetta, Anna Maria Bernini, Mara Carfagna, che hanno offerto subito, respinte le loro dimissioni. E non è morto il patto, è rotto, è frale, è rotto, rotto, è rotto, e si strapone sopra e sotto a stracci, a pecchi, a morsi, a cenci, a ciocchi, a minuzzoli, a pugni, a mani, a sacchi, a falde, a spoglie, a spolverini, a ciocchi, a spicchi, a foglie, a picchi, a pocchi, a pacche, a fondi a pelle a fiori, appunto, nelle mani di Marcello Fiori. Cerchio magico contro duo tragico. Il cammino delle riforme proseguirà. Denis Verdini resterà, così pure Richelieu e Letta, mentre Alfano l'Angelino leccherà il restante del piattino. Maramau, perché sei morto? Pane e vin non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Nemicine innamorate fanno cor per te le fusa. È arrivata la Tardelli? È arrivata? Sì. È arrivata? Buffare, poverissimo! È tardi, tardi, tardi! Questa sì che buffa! Perché mai dovrebbe essere tardi per un coniglio? Mi scusi, signore! Ma che? Ma che? Non aspettano che me! In ritardo sono già! Non mi posso trattenere! Deve essere qualcosa di importante, forse un ricevimento. No, nel mio caso non era un ricevimento, bensì la diretta di Mix 24. E mentre mi vestivo in 3 minuti e mentre già mi vestivo ero sotto il diluvio universale e stavo aggredendo ogni pedone si mettesse di fronte alla mia macchina, pensavo: però non è che tutti i ritardatari sono uguali, ognuno ha la sua dignità, la sua diversità, la sua identità che va rispettata, Giovanni. Per esempio ci sono i ritardatari consapevoli, cioè quelli che si scusano via SMS ancora prima di arrivare. E poi ci sono i ritardatari impuniti, cioè quelli che credono veramente di arrivare in ritardo per colpa degli altri, cioè della serie: se la mia macchina fosse una Ferrari non arriverei in ritardo. E poi ci sono i vaghi, cioè quelli che ti danno appuntamento intorno a un orario. Io sono invece, ho capito, credo, insomma, sono una ritardataria occasionale, cioè forse la specie peggiore. E voi ascoltatori, che ritardatari siete? Non mi fate sentire da sola in questa mattinata di pioggia. Non ce l'abbiamo la canzone, ritardo anche la canzone. E ritardo oggi, anche la musica. No, oggi, proprio, hai capito? È arrivata in ritardo, non sa che dire. Sono arrivata in ritardo e invece... non ho fatto a tempo a trovare la canzone, chiaro, no? E invece che dire scusa e basta, c'è ancora una buona... No, pubblicità. Non lo so, tutto quello che volete, gioia. Mix 24. Pietrangelo. Eccomi. Tocca a te. Andiamo, canzoniere! Non chiedo nulla a nessuno io. Sono senza un amico. Non ho un amico che sappia raccontare la mia storia. Un amico che mi preceda dappertutto per evitarmi quelle spiegazioni che m'ammazzano. Non c'è una che sappia gustarmi. Ah sì, un'infermiera. Un'infermiera, per amor dell'arte, che conceda i suoi baci soltanto ai moribondi. Vediamo se oggi indovinano. 800 24 00 24, 349 238 6666. Una bolla. Vai. Beh, voce, chitarra di Mark Knopfler, Dire Straits, questo pezzo leggendario, salto dal swing. Però non devo parlare di sultani, o forse sì, anche vicino, insomma, ma di principi. Ti segnalo, Giovanni, tu che sei molto attento a questi movimenti, queste cose, la televisione, gli azionisti, gli azionariati, i capitali, diffusi o poco diffusi. Insomma, il principe Al-Walid ha venduto la sua quota in News Corp, cioè nel regno di Murdoch. Si dissocia. Si dissocia. Aveva un 6.6%, gli rimane un 1% e l'ha venduta per circa 190 milioni di dollari. Chissà cosa vorrà dove dire? Va a finire. Bravo. È un grande amico di Berlusconi. È così, questo è il punto. E siccome si parla di movimenti, eccetera, chissà. E ha, diciamo così, molta liquidità. Diventiamo un po' arabi anche noi. E l'ha già aiutato una volta. Sì, l'ha già aiutato. Intanto una volta. Luigi ci scrive: i professionisti veri non fanno mai ritardo. Poi c'è anche un altro che dice: pensate che spettacolo la sera che si veste, ma questo non importa. Io sono una ritardataria puntuale, ci scrive Silvana da Pisa, cioè parto tardissimo ma puntualmente arrivo puntuale, è solo questione di fortuna. Puntualmente arrivo puntuale, non è male. Poi c'è Gabriele, dice: ritardatario cronico, la Tardelli può arrivare quando vuole. Ah. Oh. Allora andiamo col salamino. Salamini di ripresa! Salamini di ripresa. Matteo Renzi ha in mente una brillante idea. Organizzare una sorta di Giro d'Italia e sponsorizzare tappa dopo tappa le start-up e quelle di ripartenza dell'economia italiana. Tra le start-up c'è ovviamente quella a pane e olive e poi quella a pane e cipolla, ma tra le ripartenze non ha potuto mettere l'Ilva di Taranto, il suo ex fiore all'occhiello, perché, come ha ricordato Boccia a noi, ricordi Giovanni, stanno portando i libri in tribunale. Non risorge precisamente la cassa per il Mezzogiorno, ma il Ministero per il Mezzogiorno, quello sì. Il nome più accreditato è quello di Anna Finocchiaro, ma la senatrice è troppo autorevole per essere destinata a una sorta di non luogo del politichese, buono al più per un apicerno. Il giocattolo, insomma, serve soltanto a creare un cuscino di compensazione, un cuscino di soccorso a uso di senatori in libera uscita dopo la rottura del Nazareno in caso di una lenta risalita che non è mai quella economica, ma quella di, insomma, andare a raggranellare, a cercare consensi all'interno dei lavori parlamentari. Fatta premessa che vale sempre la regola di Leo Longanesi, quando dice: io ho risolto il problema del Mezzogiorno, mangio all'una, resta soltanto la scalinatella parlamentare. E questa è. Longa, longa, longa, longa, strettulella, strettulella. Addosta quella namuratella. Oggi continua il nostro racconto di storie siciliane. La puntata subito dopo il giornale radio è dedicata al generale Carlo Alberto Della Chiesa, ucciso nell'82 dalla mafia. Il prefetto, inviato a Palermo all'indomani dell'omicidio di Pio La Torre, abbiamo raccontato ieri la storia, fu lasciato solo dalle istituzioni, come dice lui stesso in questa intervista a Giorgio Bocca, rilasciata poco prima di morire. Da oggi la zona sarà presidiata a mano militari. Non spero certo di catturare gli assassini a un posto di blocco, ma la presenza dello Stato deve essere visibile. L'arroganza mafiosa deve cessare. Che arroganza, generale? A un giornalista, devo dirlo. Uccidono in pieno giorno, trasportano i cadaveri, li mutilano, ce li posano tra questura e regione, li bruciano alle 3 del pomeriggio in una strada centrale di Palermo. Se non ottiene l'investitura formale, che farà? Rinuncerà alla missione? Vedremo a settembre. Sono venuto qui per dirigere la lotta alla mafia, non per discutere di competenze e di precedenze. Ma non mi faccia dire di più. Non chiedo leggi speciali, chiedo chiarezza. Ecco. Come ho detto, la puntata sul generale Della Chiesa, che è di Gianluigi De Stefano, andrà in onda dopo il giornale radio, e Marina Miloni intervista Giuseppe Sontile a commento della puntata. Mario, c'hai ancora una bolla? Sì. Giovanni, il circo europeo va avanti. È appena arrivata la notizia che Jens Weidmann, il capo della Bundesbank, per essere chiari, quindi uno dei principali azionisti poi della BCE, dice che la banca centrale greca deve essere molto rigorosa nella concessione di linee di credito alle altre banche, e a sua volta ovviamente la BCE Ti leggo solo una cosa, dice: governi e parlamenti devono prendere decisioni su come e quando mantenere in piedi le banche o farle fallire. Dopotutto si tratta di una faccenda che riguarda i contribuenti. Duretto, eh? Abbiamo qualche risposta sul canzoniere? Ah, Fausto da Roma. Fausto da Roma. Sì, buongiorno. Buongiorno, allora? Allora era il grande, il più grande attore d'Europa, Carmelo Bene, con il suo teatro di scena, il suo Amleto dalla Forca. Bene, benissimo, ha vinto il Feltrinelli. Il Feltrinelli, ha già. Ha vinto un Feltrinelli, hai visto? Ce l'abbiamo dire? Fatta. Di Pietrangelo. Il titolo esatto, però, Omelette for Hamlet. Beh, in realtà quella lì è uno spettacolo, ma poi lui aveva tradotto liberamente dalla Forg e lo ha riproposto più volte nel suo Amleto. Che vabbè, guardi, le do il numero del telefono e butta fuoco, vi mettete d'accordo fra voi due, una disputa che pubblicheremo, sì, sì. Manderemo in onda, appuntate. La domanda a butta fuoco. Ha pure una domanda, faccia. Volevo chiedergli, magari, no, anche non adesso, in un'altra traduzione. Sì, ma in fretta perché ha tre secondi. Dirci cosa pensa lui di Carmelo Bene, tutto qui. Il meglio possibile, rispondo tutto. Io. Pietrangelo, cosa un pensi? Un po' più del meglio. Un po' più del meglio possibile, il meglissimo. E infatti Europa è riduttiva come definizione, è il cosmo che canta con lui. Ha capito? Però, È il cosmo che canta con lui, quindi qui stiamo proprio al massimo livello. E per finire, in questa giornata così triste, uggiosa di pioggia, Azzurro di Celentano. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, pensieri all'incontrario.